Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci ancora con l'ennesimo appuntamento insieme all'Adico, anche d'estate, anche con questo caldo feroce che ci accompagna. Abbiamo la possibilità di chiacchierare, insomma, di cose che interessano a tutti quanti noi consumatori. Saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, saluto tutti gli ascoltatori. Allora, con il caldo c'è una cosa che comincia, è cominciata un paio di settimane fa, e sono i saldi. E quindi quest'oggi è questo l'argomento che vogliamo toccare. Sì, come ogni anno noi quando cominciano i saldi poi abbiamo l'abitudine circa 15 giorni dopo fare un po' il punto di come i saldi stanno andando e cerchiamo di interpellare quelli che sono i negozi o i nostri soci e porre loro alcune domande, capire appunto quanto hanno speso, chi rispetto ad altri ha approfittato di questo periodo e soprattutto anche rispetto agli anni precedenti verificare se il trend è migliorato o peggiorato. Che cosa ne è venuto fuori allora da questa vostra prima indagine? È venuto fuori che i centri commerciali si sono ritenuti soddisfatti con un dato che è stato più 7% rispetto all'anno precedente. Addirittura è rimasto soddisfatto anche il centro storico con un dato che è oscillato mediamente circa più 3%. Noi abbiamo notato un crollo addirittura del 15% in alcune zone, soprattutto nei paesi limitrofi. Questo a nostro avviso è determinato da diverse ragioni. La prima del tempo, che sicuramente ha mosso, fatto sì che le persone hanno voluto orientarsi verso i centri commerciali, sicuramente destinazioni più fresche rispetto ai negozietti dei centri storici, ma per quanto riguarda i centri storici evidentemente la chiusura di molti negozi ha ridotto quella che è stata una competizione che fino a qualche anno fa era molto più sentita tra gli operatori e che quest'anno ha avuto modo di quindi aiutare chi insomma in questa crisi è riuscito a resistere e rimanere aperto. Ecco, quindi ci sono meno negozi che vendono e quindi quelli che sono riusciti a restare aperti hanno quella percentuale in più rispetto agli anni precedenti. Sì, hanno una percentuale in più e soprattutto anche la cifra messa a disposizione dalle persone, dal nostro campione, è risultata anche di maggior interesse perché è risultato che le donne hanno speso mediamente 130 euro contro i 90 dei maschietti. Un'altra cosa molto interessante è il risultato che nel periodo dei saldi ad approfittarne sono in particolar modo le donne, le femminucce, addirittura due persone su tre infatti hanno confermato di averne approfittato, mentre diversamente i maschietti si sono più orientati sull'acquisto delle scarpe che dei vestiti. Hanno dato molto anche i costumi, gli accessori per la casa e comunque penso che nel complesso, appunto come detto poco fa, a parte i negozietti dell'area periferica, per molti gli affari sono stati veramente buoni quest'anno rispetto appunto al 2014 e anche al 2013. Un dato insomma che in qualche modo può far sorridere, ma ricordiamoci che ci sono molte meno persone che lavorano rispetto agli anni addietro. E la cosa che mi ha così un po' incuriosito è il fatto che hai detto che i maschietti hanno comprato le scarpe? Sì, da quello che noi abbiamo chiesto al nostro campione è risultato che mentre le donne si sono concentrate più sugli abbigliamenti e i costumi e ci sono per la casa, ma i maschietti si sono concentrati di più sul settore delle scarpe. Poi è risultato anche come, a parte il settore tecnologico, comunque non aspetta i saldi, ma aspettano sempre le offerte, quindi questo non è un appuntamento fisso, ma comunque anche il settore tecnologico è stata un'occasione per molte persone di fare le spese. Soprattutto poi bisogna anche ricordare come di contro molti commercianti si sono lamentati, insomma, che per tutto l'anno ci sono questi sconti che comunque in un modo o in un altro hanno sempre cercato di attirare la clientela presso i loro negozi. Pensiamo agli SMS o al messaggio per posta elettronica, addirittura di tesserine di un tipo, le raccolte punti di un altro, per cui tutte strategie che malgrado tutto l'anno tendono a proporre degli sconti, comunque non hanno danificato quello che è stata una via abbastanza buona, ecco, tranne che, come ripetiamo, i negozietti fuori centro storico, che probabilmente quello che si è lamentato di più, e sicuramente quest'anno hanno fatto meno affari rispetto all'anno precedente. E vabbè, questo è quello che l'Adico è riuscita ad apprendere con le vostre inchieste. Parlavo delle scarpe perché di solito le scarpe, insomma, sono territorio assolutamente femminile, ma evidentemente qualcosa sta cambiando. Va bene, grazie a Carlo Garofolini, l'appuntamento con l'Adico di Mestre è tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.